Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Capacità creativa, buona dotazione culturale, qualità, tradizione, estetica, lifestyle, estro nel design e nella progettazione, flessibilità. Sono questi tra gli altri gli indiscussi valori che hanno portato il Made in Italy ad essere un'eccellenza nel mondo. Ma cosa significa davvero Made in Italy? Dietro al significato letterale dell'espressione, che sta appunto per fatto in Italia, c'è una solida filosofia che parte da lontano. Ogni popolo da sempre esprime se stesso attraverso le sue manifatture. Era così per le comunità più antiche e così anche nel terzo millennio. I prodotti di un paese rappresentano il suo spirito che oggi combatte o che almeno cerca di convivere con la globalizzazione, quando questa vuol dire omologazione sterile. Ecco allora che ognuno, forte della sua storia e delle specifiche caratteristiche che questa storia ha creato nel tempo, mostra delle qualità che sul mercato lo rendono unico. La Germania è sinonimo di robustezza e affidabilità. Gli Stati Uniti sono simbolo di innovazione e lungimiranza. Il Giappone si distingue per funzionalità e tecnologia. E poi c'è l'Italia, maestra in molti campi ed esempio ammirato in tutto il mondo, che, come ricorda Santo Versace, con la moda raggiunge una delle vette del suo talento. La moda rappresenta cultura. Come tutti i prodotti di alta gamma rappresentano cultura. Rappresenta una costante innovazione, continua. La moda è un settore che ha una marcia in più. Perché? All'anno di 6 mesi. La moda è una scommessa continua. Da una parte innovazione costante, un mondo globalizzato, perché la moda nasce globalizzata. Cioè chiunque ha talento scende in campo e conquista la sua quota di mercato, di qualunque razza, di qualunque religione e di qualunque paese. La moda non è qualcosa di superfluo, di cui si può fare a meno. I vestiti rappresentano chi siamo, sono il nostro biglietto da visita e la loro funzione sul piano sociale è di grande importanza. Lo studioso Georg Simmel ha parlato della moda come di un fenomeno che riesce contemporaneamente a includere, a far sentire parte di un gruppo e a differenziare, perché ognuno nella moda può trovare espressione della sua unicità, pur in un linguaggio che anche gli altri possono comprendere. Santo Versace, fratello del compianto Gianni, ha le idee molto chiare in proposito. La moda va usata, va strumentalizzata. Non bisogna farsi strumentalizzare, non bisogna farsi usare dalla moda. Ognuno di noi deve vestire la propria anima. Sintesi perfetta tra creatività e perizia, la moda costituisce un grande patrimonio e una risorsa culturale importante per lo sviluppo del nostro paese. La genesi del Made in Italy è dovuta proprio a questo felice incontro tra intuizioni innovative e praticità. Le migliaia di abili artigiani e mercanti sparsi per la penisola hanno creato una qualità e un'eleganza riconosciuti ovunque. Se l'Italia, all'inizio della rivoluzione industriale, sembrava dover rimanere relegata a una posizione marginale per via della carenza di materie prime, grazie alla sua vitalità è riuscita invece a ribaltare il suo destino. Ed è questa la storia che oggi a Destini Incrociati vi vogliamo raccontare. Come l'alta moda Made in Italy, grazie alla lungimiranza di un uomo, è diventata quello che è, quel simbolo del nostro talento che tanto ci rende orgogliosi. Il percorso di affermazione del Made in Italy è lungo e tortuoso, iniziato tra la seconda metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, ancor prima dunque dell'unità nazionale. I ceti più agiati dei principali paesi europei non hanno mai nascosto di apprezzare molti prodotti regionali tipici ed è partito un commercio prolifico sia in termini meramente monetari che di esperienza. Tanto che, come ricorda un cinegiornale datato, a partire dal secondo dopoguerra il monopolio della moda non spetta più solo a Parigi. Fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale esisteva nel mondo un solo mercato dell'alta moda, un solo punto, cioè nel quale venissero presentate in febbraio ed in agosto delle nuove collezioni per la primavera e per l'autunno. Questo punto era Parigi. A Parigi quindi convenivano da tutto il mondo i famosi buyers, i compratori specializzati che per il fatto di essere in maggioranza anglosassoni venivano generalmente indicati col nome di buyers, che significa appunto compratore. Se l'Italia è diventata il polo concorrente a Parigi per l'alta moda, lo si deve principalmente a un uomo. È un marchese, un nobile dandy che ha fatto dell'eccentricità un marchio di fabbrica. Come ricorda Beppe Modenese, ambasciatore da decenni della moda italiana nel mondo, è quest'uomo, con il suo intuito avanguardistico, che ha rivoluzionato la moda italiana facendola crescere e diventare quella che conosciamo oggi. Il suo nome è Giovanni Battista Giorgini. Giovanni Battista Giorgini. Nel 50, Giovanni Battista Giorgini, che aveva un ufficio di assistant buyer, vuol dire assistente compratori per gli stranieri, ha trovato che la moda italiana era matura per esporsi a un giudizio di pubblico e di stampa. Giovanni Battista Giorgini, da sempre bista per tutti quelli che lo conoscono, nasce a Forte dei Marmi, cuore della Versilia, nel 1898. La sua è un'antica e numerosa famiglia lucchese dalla vita pubblica intensa. Ecco perché non si possono raccontare la sua vita e il suo spirito senza fare qualche accenno ai suoi antenati, patrioti con forte senso civico, animati da ideali democratici. Il quadrisnonno, capitano Giorgio Giorgini, nel 1798 si rifiuta di consegnare ai francesi il castello a Ghinolfi a Montignoso, restando fedele alla Repubblica. Suo figlio Nicolao ricopre tutte le più importanti cariche di governo a Lucca nella prima metà dell'Ottocento e per la città fa costruire l'acquedotto, risana le strade e la cinta di mura, fa erigere ponti e introduce l'uso delle grondaie. Il figlio di Nicolao, Gaetano, bisnonno di Bista, dopo aver preso parte eroicamente alla difesa di Parigi, assediata dai russi, si laurea in ingegneria al Politecnico, torna a Lucca e salva la città dalla piena del cerchio, rompendo gli argini contro il volere della maggior parte di persone e istituzioni. 5 anni dopo, trasferitosi a Firenze, avvia la bonifica della Maremma. Rettore dell'Università di Pisa, è uno dei 5 fondatori dei congressi scientifici in Italia. I suoi figli sono tutti attivi politicamente. Giorgio partecipa alla lotta al brigantaggio. Giovanni Battista, marito di Vittorina Manzoni, figlia dell'autore dei Promessi Sposi, è tra i primi a promuovere l'Unità d'Italia. Carlo, nonno di Bista, viene eletto in Parlamento. Bista eredita i valori della sua illustre famiglia e da suo padre Vittorio, poeta macchiaiolo, il gusto per l'arte. La storica Alba Tiberto Beluffi descrive così la dimora di campagna dei Giorgini nei pressi di Stazzema. Casa Giorgini è stata costruita nel 1913 da Vittorio Giorgini, industriale del marmo, allievo ed amico di Filadelfo Simi con cui andava a caccia, con cui dipingeva e a cui aveva affidato un settore della sua ditta che si occupava di statuaria di piccole dimensioni. Casa Giorgini era stata ideata da Vittorio proprio per stare vicino all'amico Filadelfo. Fra le due case c'era un dislivello di 40 metri. La casa venne denominata La Silvana, mentre quella del Simi, oggi conosciuta come la casa del pittore, si chiamava La Villanella. Era duro terreno di caccia e di cinghiali a cui si accedeva solo a dorso di mulo e non certo adatto a scene bucoliche. Se i due amici avevano scelto quel tipo di residenza, era perché il loro temperamento si accordava bene all'asperità di un buon ritiro appartato e solitario, in compagnia dei loro bambini e delle loro consorti, non certo agghindate con parasoli alla moda di Parigi. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, Giovanni Battista Giorgini ha appena 17 anni. Ma lo spirito di famiglia non mente e appena può decide di onorare il suo paese partendo per il fronte. Da volontario combatte quindi sul Carso e merita una decorazione per il suo valore sul campo di battaglia. Sono mesi durissimi, in cui vede morire amici passati tra sangue, distruzione, dolore continuo. Il poeta Ungaretti ha cercato di raccontare lo strazio di queste vite precarie con i suoi componimenti. Questo è Fratelli. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Youngers pick them everyone. When will they ever learn? Di ritorno dal fronte ad attendere Bista c'è una brutta notizia. Suo padre è morto. Lui, perciò ambizioso ma responsabile, interrompe gli studi da diplomatico e incomincia a gestire le cave di marmo che la sua famiglia possiede a Carrara. Ad aiutarlo c'è Nella, sua moglie per 50 anni, che lo affianca nella vita e nel lavoro e gli dà tre figli, Graziella, Vittorio e Matilde. All'inizio degli anni 20 si trasferiscono tutti a Firenze e Giorgini si inventa la sua strada. Avendo rinunciato a fare il diplomatico, trova nell'attività di esportatore, che lo porta comunque a viaggiare, una valida alternativa. Bista comincia così a promuovere l'abilità artigianale italiana all'estero, prima di tutto negli Stati Uniti. Fino alla crisi del 29, quando è costretto a fermarsi per il disastro del mercato americano, esplora i gusti e le esigenze d'oltremanica e fa conoscere, molto prima che diventi un marchio di qualità certificato, il Made in Italy, che la stampa internazionale accoglierà con entusiasmo. Lo sentiamo dalla giornalista olandese Lily Goodman. L'inesauribile fantasia degli italiani di creare nuovi tessuti e le bellissime combinazioni dei colori. Per tutti gli anni 30 riprendere gli affari è dura, anche per via delle restrizioni imposte dall'autarchia. Ma lui non è un tipo che si arrende e su incarico di uno dei suoi maggiori clienti americani avvia un ufficio acquisti a Barcellona e apre un negozio di artigianato americano nel cuore di Firenze che chiama Le Tre Stanze. Con la famiglia abita a Bellosguardo, una collinetta a sud della città che domina l'Oltrarno. Nel 43, durante la guerra, con Firenze ancora divisa in due, arriva qui la prima colonna di mezzi alleati, guidata da un giovane capitano americano. Si rivolge a Giorgini e lui, tra i pochi italiani a essere uscito dai confini, gli risponde in un inglese perfetto e gli offre accoglienza. Il comando alleato si sistema nella dimora di Bellosguardo. La figlia di Bista, Graziella, viene assunta come interprete e per lui è una riapertura fertile della strada dell'esportazione. Tutto gioca a suo favore. Ha una personalità brillante, ci sa fare con le persone, è un vero talento nelle pubbliche relazioni. Non si sente un imprenditore vero e proprio. Ad animarlo è una profonda passione per quello che fa, tanto che fare soldi non avendone bisogno è l'ultima cosa che gli interessa. Il suo gusto innato l'ha sempre portato a scegliere tra le cose più belle, dalle opere d'arte ai pezzi d'antiquariato, dei quali è collezionista e grande conoscitore. Ha una dote, tra le tante, che lo distingue da chiunque. Sa leggere i tempi in anticipo, prevedere le tendenze e fa spesso scelte apparentemente azzardate che poi, alla luce del tempo che passa, risultano essere state all'avanguardia. Quando lavora con artigiani e fornitori, suggerisce linee, forme e colori e va avanti per la sua strada senza cambiare idea, sempre con i suoi modi eleganti e gentili, finché non convince tutti ad ascoltarlo. June 4th, 1944. Rome was free. Liberated after 21 years of fascist rule. 1944. Per il suo inglese fluente e i suoi rapporti con l'America, al marchese Giorgini viene affidato il compito di organizzare un negozio di articoli da regalo per le truppe alleate. Il risultato è incredibile. Boom di acquisti, tanto che i negozi cominciano ad apparire in altre città italiane. Si spalancano ancora le porte dell'esportazione, grazie anche a un'acuta intuizione. Le ragazze d'oltremanica stanno abbandonando i loro vecchi abiti perché hanno bisogno di assecondare, anche con l'abbigliamento, la loro emancipazione sociale. Quello che non offre Parigi, pensa Giorgini, troppo concentrata soltanto sull'alta moda, lo può offrire l'Italia. Con la mostra Italy at Work al Museo d'Arte Moderna di Chicago vengono esaltate le eccellenze della produzione italiana, dai tessuti alle ceramiche, dal vetro alla pelle. In due parole, un successo. Il marchese dall'aspetto dandy, che si diverte a fare anche lo stilista, coglie l'occasione per riprendere tutti i contatti lasciati a causa della guerra e incrementa ulteriormente le frequentazioni fertili. Nel 49 propone a uno dei suoi clienti più influenti, Altman, di organizzare una presentazione di moda italiana a New York. Questa volta però non gli va bene. È davvero un rischio troppo grande, argomenta Altman, non convinto che l'Italia sia davvero pronta a distanziarsi, una volta per tutte, dallo stile francese. E così Giorgini fa di testa sua. 1950. Mi occorse quasi tutto l'anno, durante il quale feci frequenti visite a Milano, a Roma, nelle varie città d'Italia, per trovare delle giovani case di moda che volessero seguirmi in questa mia iniziativa. Finalmente riuscii a metterne insieme 10. Ciascuna doveva farmi 18 modelli. Volevo mostrarli all'inizio del 51, quando appunto Parigi in quell'epoca mostrava la prima settimana di febbraio. E io speravo di riuscire a convincere i compratori delle case americane che io rappresentavo a venire a Firenze dopo Parigi. L'impresa non è solo in apparenza titanica. La fiducia del mercato internazionale nei confronti dell'Italia non è ancora matura e mai nessuno prima d'ora ha pensato di organizzare una sfilata collettiva in cui coinvolgere più case di moda, diverse tra loro, ma con un grande tratto in comune: il fatto di rappresentare il Made in Italy. Ma il marchese Giovanni Battista Giorgini, spirito combattivo nascosto dietro a un abbigliamento sopra le righe, sta per lasciare tutti a bocca aperta. A destini incrociati siamo nel 1950 e Firenze sta per diventare la capitale della moda italiana, nonché punto di riferimento del gusto mondiale. Mario Goracci, segretario della Camera Nazionale dell'Alta Moda Italiana per molti anni, racconta così il passaggio di testimone da Firenze a Roma. L'alta moda cominciò a Firenze, poi per molte ragioni, la doppia ambasciata a Roma, il periodo dell'oro del cinema, la dolce vita, gli anni tra il 50 e il 60, danno a Roma un indiscutibile primato. Tra l'altro le maggiori case di moda erano a Roma, quindi sembrava logico che presentassero qua. Ci furono delle trattative e dei compromessi con Firenze, le sfilate avvennero un po' a Firenze, un po' a Roma, 3 giorni a Roma e 3 giorni a Firenze. Poi piano piano diciamo che le cose si sono un pochino stabilizzate e c'è stata più chiarezza. Roma ha dato un maggiore impulso all'alta moda e alle sue sfilate, Firenze si è diciamo adagiata in un settore che forse le era più congeniale, anche per le tradizioni, per il suo internet, per la sua cultura. È diventata un po' la sede deputata delle case creatrici di boutique. Dopo la Seconda Guerra Mondiale tutti guardano ancora a Parigi, finché il marchese Giovanni Battista Giorgini, eccentrico dandy che ormai da anni fa commerci con gli americani, decide che anche l'Italia, che si sta via via distinguendo dai francesi, è pronta per affrontare il mercato straniero. Giorgini è lungimirante, abile nelle pubbliche relazioni, ha ereditato dalla sua nobile famiglia eleganza nei modi e negli abiti. In testa ha un grande e ambizioso progetto: organizzare a casa sua, nella splendida villa di Via dei Serragli a Firenze, la prima presentazione di moda italiana. In poche parole, la prima vera sfilata Made in Italy. Gli serve quasi un anno per organizzare il tutto, per contattare i compratori americani che sarebbero giunti in Toscana subito dopo aver visto le collezioni a Parigi e per trovare, difficoltà ancora più grande, 10 nomi di stilisti italiani su cui puntare il tutto per tutto. Qualcuno ce l'ha già in mente: Schubert, Iole Veneziani, Alberto Fabiani. Sono cavalli di razza che già vestono le signore dell'alta società. Serve però anche qualche giovane, qualcuno che già si sia fatto notare, ma che ancora non abbia un talento riconosciuto universalmente. Giorgini si lascia andare sulla poltrona, braccia a penzoloni sui braccioli, sguardo perso nel vuoto. I suoi 3 figli ormai grandi gli passano di fianco di tanto in tanto, ma lui sembra non notarli. Sa che un ragazzo di Firenze ha aperto da poco una boutique a Capri. Fa abiti di seta dai colori estrosi e le signore in vacanza sull'isola ne vanno matte. Non ci pensa 2 volte. Vuole alla sua sfilata anche Emilio Pucci. Emilio Pucci. Emilio Pucci, il più poliedrico creatore di moda, precorse i tempi anticipando una moda detta boutique. Propose un tessuto nuovissimo, organzino di seta jersey, che permise a un abito di entrare nella tasca di una giacca senza sciupare la sua bellezza e la sua funzionalità. Inoltre Emilio Pucci è il primo che portò il nome Italia all'estero. Il suo stile inconfondibile è ormai una cifra riconoscibile in tutto il mondo. Se c'è una prima cosa che Giovanni Battista Giorgini ed Emilio Pucci hanno in comune è il fatto di appartenere entrambi a una nobile famiglia toscana di antica tradizione. La famiglia Pucci, che possiede uno splendido palazzo nel cuore della città, si sposta spesso ed è per questo che Emilio, primogenito, nasce a Napoli. È il 1914, siamo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, ma ancora ignari di quello che sta per succedere, i suoi genitori si godono la leggerezza della vita con gli amici. Emilio Pucci cresce tra viaggi, cene e lunghe estati di villeggiatura all'insegna del lusso e dell'ozio, come si fa in tutte le famiglie nobili come la sua. Frequenta scuole in Italia e all'estero, passando periodi negli Stati Uniti. Amante dell'arte e grande appassionato di sport, il giovane Emilio si rivela un vero talento dello sci. Nel 34 e nel 35, in pieno regime fascista, fa parte della squadra olimpica italiana e ottiene una borsa di studio al Reed College in Oregon. Da questo momento il suo inglese già ottimo diventa fluente. Sono sempre stato una persona molto attiva e ho sempre amato profondamente lo sport. È per questo che, quando ho cominciato a disegnare abiti, la mia priorità era la mobilità del corpo. Non potevo concepire un vestito in cui il corpo restasse ingabbiato. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Emilio Pucci, ancora studente, si arruola come ufficiale nell'aviazione italiana. È iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze e nel 1941 prende la laurea. Dopodiché continua a servire l'esercito, distinguendosi per coraggio durante molte battaglie. Nulla in questo momento è più distante da lui dall'idea di lavorare nella moda, alla quale si avvicina per puro caso. 1947, Zermatt, celeberrima località sciistica sul Cervino, Svizzera. La nobiltà di tutta Europa si riunisce qui, a 1600 metri d'altezza, e tra una pista e un impianto di risalita combina affari. Emilio, sciatore professionista, quando sfreccia, lascia tutti a bocca aperta, maestri inclusi. Scambia una parola con tutti, si diverte. Questo per lui è un luogo del cuore, perché proprio qui si allenava con la squadra olimpica. Un po' per gioco, un po' per passare il tempo, ha creato per una sua amica una tuta da neve piuttosto eccentrica. Non è la prima per cui lo fa. Ogni tanto qualche amico, certo di trovare in lui la coscienza dell'esperienza diretta, si è rivolto a lui per farsi disegnare una tuta originale. E così adesso, sulla neve bianchissima di Zermatt, c'è qualche capo unico che risalta tra i tanti. Mi chiamo Toni Frissell e in quel periodo facevo la fotografa per la rivista di moda Harper's Bazaar, che mi mandava in giro per il mondo a scoprire le curiosità in fatto di moda. Quando ho visto l'amica di Emilio Pucci che sciava con lui con indosso la tuta che lui le aveva disegnato, ho chiesto ai due di mettersi in posa per fare una foto. Era una tuta bellissima, originale, inaspettata. Ed era davvero curioso che qualcuno in quegli anni, mentre chi sognava di fare lo stilista pensava solo all'alta moda di Parigi, si mettesse a disegnare capi d'abbigliamento sportivo. Quando la foto di Toni Frissell compare su Harper's Bazaar, il successo è immediato. Emilio Pucci, che fino a questo momento ha disegnato per gioco, si ritrova decine di richieste da soddisfare e concepisce per la prima volta che il suo destino sia quello di fare lo stilista. Un anno dopo Zermatt, nel dicembre del 48, Harper's Bazaar può pubblicare la prima collezione sportiva firmata da lui. Sia la stampa che il mercato americano, orientati alla comodità del casual, accolgono bene i pratici vestiti di Pucci, che nel frattempo ha disegnato anche una collezione mare, impostata sui toni del bianco e del nero, realizzata con seta stampata dal setificio Guido Ravasi di Como. I suoi modelli vengono subito acquistati dal department store Lord & Taylor e commercializzati negli Stati Uniti con l'etichetta Emilio of Capri. Mentre il marchese Giorgini è in America a prodigarsi per far conoscere il Made in Italy, Emilio Pucci sta cercando, facendosi largo tra la concorrenza, di rappresentare per gli americani il mito italiano. Come a dire, due uomini, un solo destino. Nel 1950, dopo aver chiesto ai suoi contatti oltremanica di organizzare una sfilata di case di moda italiane in America, il marchese Giovanni Battista Giorgini ripiega su Firenze. Ha in mente un'idea che in molti considerano irrealizzabile: promuovere l'eccellenza sartoriale italiana slegandola per la prima volta del tutto dal riferimento delle collezioni parigine. Armato di pazienza, della sua agenda piena di numeri e del suo fiuto infallibile, incomincia a scegliere una rosa di nomi che considera pronti per affrontare il mercato estero. Poi c'è una giovane scommessa, Emilio Pucci, che si sta distinguendo per uno stile particolare e fantasioso. Quando ho cominciato a lavorare, mi ricordo, la prima collezione da spiaggia che ho fatta in bianco e in nero, perché i colori che vedevo erano così poco simpatici col sole, con le, poi a capi, con colori, che proprio non trovavo niente che potesse servire. Allora ho fatto centinaia di fotografie sott'acqua a vari livelli e ho portato queste fotografie a Como, abbiamo cercato di rifare questi colori chimicamente, poi fotografie di fiori, eccetera. E ho scoperto le cose che non conoscevo. Per esempio, se lei coglie dei fiori in un giardino e li mette in un vaso, potrà essere più o meno bello come li mette insieme, ma non sarà mai dei colori che fanno a calci. Mentre se lei prende le cartelle e colori di industrie, dove i colori sono fatti così, lei trova che raramente riesce a mettere i colori insieme. Dunque, io ho sviluppato questo colore e direi ancora, forse è una questione di scoperta, di divertimento, di mettere dei colori insieme che non si erano mai visti e che hanno avuto molto successo. Nella casa fiorentina del marchese Giorgini in via dei Serragli sta per svolgersi la prima sfilata di moda italiana, l'evento epocale da cui il Made in Italy uscirà come sinonimo di gusto, creatività e qualità per i compratori di tutto il mondo. L'evento che farà di un uomo, Emilio Pucci, un simbolo dell'Italia nel mondo. A destini incrociati siamo nel 1951 e due fiorentini, entrambi provenienti da famiglie aristocratiche, stanno per unire i loro destini nell'evento che più di qualunque altro ha segnato la storia della moda italiana. Il primo si chiama Giovanni Battista Giorgini, è un marchese appassionato d'arte ed antiquariato e da anni va e viene dall'America per convincere i compratori d'oltreoceano che non deve essere solo Parigi a dettar legge in fatto di gusto. Il secondo è Emilio Pucci, si è scoperto stilista per caso dopo aver disegnato per gioco una tuta da sci per un'amica e ha aperto da poco la sua boutique a Capri. Il suo stile è all'avanguardia, come lo sono i suoi colori e i suoi materiali. Quindi nel nostro lavoro abbiamo portato, credo, colore, forma, tecnica di taglio e tessuti moderni che permettano il movimento. Giorgini non se lo lascia scappare. Gli chiede di far parte della rosa di nomi che ha pensato per la sfilata che sta organizzando a casa sua, in via dei Serragli. I più importanti compratori americani arriveranno nelle eleganti sale del palazzo per vedere, di ritorno dalla presentazione delle collezioni parigine, se l'Italia può davvero spiccare il volo nel mondo della moda in autonomia, senza essere sempre la sorella povera dei francesi. Neanche a dirlo, Pucci accetta con entusiasmo, felice di rappresentare con gli altri nove quel Made in Italy che per Giorgini è una vera e propria ragione di vita. Mesi di preparazione, tra l'allestimento degli spazi, la scelta degli abiti e delle modelle, le chiamate con i buyer americani. E poi finalmente il grande giorno arriva, è il 12 febbraio del 1951. Venero qui, in casa mia, l'indomani mattina, e proprio in questa stanza qua, io feci questa prima sfilata. Naturalmente io ero in un angolo della sala col cuore che mi batteva in gola, questi compratori esperti di moda venivano da Parigi, avevano visto tutte le collezioni già a Parigi, questo era il giorno dopo, sicché proprio non potevo vedere dalle loro espressioni se questa collezione piaceva o non piaceva. Al First Italian High Fashion Show, nella splendida cornice di Villa Torrigiani in via dei Serragli, c'è un'atmosfera indimenticabile che lascia tutti senza parole. Bista, così tutti chiamano Giorgini, ha fatto le cose in grande senza lasciare nulla al caso, dal vino al ballo finale che coinvolge la nobiltà fiorentina, a cui viene chiesto di indossare abiti ispirati a Maddalena Strozzi. I buyer, seduti nelle migliori posizioni per assistere alla sfilata, prendono appunti. Ci sono Julia Trissel, della Bergdorf Goodman, importantissimo negozio di New York, Stella Anenia, della Magnin, Henry Morgan, da Montreal. Tre firme del giornalismo sono pronte a documentare tutto. Elsa Robiola di Bellezza, Vera Rosi di Novità ed Elisa Massai di Women's Wear. Emilio Pucci si gioca una carriera che può esplodere o essere stroncata sul nascere. E anche per Giorgini può essere l'inizio o la fine di tutto. Terminata la sfilata, mi avvicinai a questo gruppo di compratori per sapere qual era la loro reazione. Entusiasti. Questo gruppo di cinque compratori americani, che erano nomi molto importanti, tornarono in America con un tale entusiasmo che quando feci la seconda sfilata, organizzai la seconda presentazione della moda italiana, vennero giù dall'America in 300 fra compratori e stampa. Il numero fu tale che io fui costretto a chiedere l'uso della sala bianca in Palazzo Pitti per poter contenere tutta questa folla di compratori che ci arrivava e pioveva da tutte le parti del mondo. 1500 i modelli presentati, 50 le indossatrici, un esercito di parrucchieri, stiratrici, guardarobiere. Questi gli ingranaggi principali della grandiosa macchina in moto per una settimana a Firenze. Dopo il trionfo della prima sfilata organizzata dal marchese Giorgini nella sua villa in via dei Serragli, Firenze diventa il centro della moda italiana, punto di riferimento del Made in Italy nel mondo. La Sala Bianca di Palazzo Pitti diventa il prestigioso scenario delle sfilate a cui affluiscono addetti ai lavori e curiosi da ogni paese. Bista è al massimo del suo successo. La sua attività conosce uno sviluppo impetuoso. A casa sua accoglie divi di Hollywood, registi del calibro di Alfred Hitchcock, politici come Truman, ambasciatori e uomini di cultura. Trova sempre una maniera per innovare la moda, per esempio trovando uno spazio adeguato per la moda maschile e infantile. precursore dei tempi, è il primo a intuire l'importanza della boutique e della moda pronta, determinante nella fortuna del Made in Italy. Mette tutte le sue forze per mantenere coesione tra gli stilisti, per dare un'immagine forte dell'Italia, e riesce a fare della moda italiana quello che ha sempre sognato, il solo e unico concorrente della moda francese. Poi, ancora una volta prima di chiunque, scopre il mercato giapponese, dando il via a un fenomeno di attenzione orientale verso il nostro paese che oggi è più vivo che mai. La sfilata evento non è un successo solo per Bista. I compratori americani spargono la voce ed esplode il fenomeno Emilio Pucci. Nel 1955 vince il premio Oscar della moda dalla Neiman Marcus come migliore creatore dell'anno. Continua a sperimentare con i materiali, dalla produzione di velluti artificiali per pantaloni sportivi al Wally Pliss stampato. Inventa un nuovo jersey in organzino di seta finissimo, realizzato dalla Mabu di Solbiate e dalla Boselli di Como, per la confezione di capi piccolissimi che non si stropicciano, ideali per la donna moderna che per la prima volta sente l'esigenza di viaggiare e viaggiare leggera. Ci ho lavorato molto per cercare di fare una vasta gamma di modelli, di idee, e di studiare l'economicità del tessuto in modo da arrivare a questi pesi bassissimi e a mettere queste cose nei sacchetti così. Negli anni 60 esplode la Pucci mania. Gli stampati psichedelici diventano uno status symbol. Le collezioni dello stilista si ispirano alla pop art, oltre che alle suggestioni esotiche raccolte durante i suoi viaggi. Nel 71 gli ingegneri della NASA gli chiedono di disegnare il logo per la missione spaziale Apollo 15. Marilyn Monroe viene sepolta con un suo abito. In Italia i vigili urbani indossano una divisa disegnata da lui, celebre la foto di Lady Di stretta nel suo vestito di strass azzurri creato apposta per lei. Il suo talento va oltre la moda ed entra nella storia, diventando un mito che nessuno riuscirà mai a copiare. Giovanni Battista Giorgini, per tutti Bista, si spegne nel 1971, dopo aver chiuso gli occhi, come ogni pomeriggio, nella sua poltrona preferita, la stessa in cui aveva pensato 20 anni prima al nome di Emilio Pucci. Anche lui non è più tra noi. Si è spento a Firenze nel 1992, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della moda, in quel Made in Italy che entrambi hanno lanciato. Tutti e due nobili, di Firenze, amanti del bello, con un solo destino, quello di riuscire a fare quello che hanno sognato, far vivere il mito dell'Italia nel mondo. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.